parte una domanda. Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figa, non so io. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dobbiamo ridere, bisogna dire puttanate perché abbiamo bisogno di ridere. Allora ragazzi, molte persone mi stanno chiedendo se quello presente ieri alla Zanzara era il vero Moggi, l'autentico Luciano Moggi, oppure una nostra imitazione. Purtroppo corriamo anche questo rischio da quando abbiamo iniziato, ormai Parenzo direi 4 anni fa, ad imitare... Quattro lustri sarebbero 20 anni. 4 anni fa ad imitare vari personaggi. Mi ricordo, iniziamo da un tuo meraviglioso Bossi. E invece no, era davvero Luciano Moggi. Perché le persone se lo chiedono? Perché ieri Lucianone Moggi ha sfoderato, copyright da Gospia, ha sfoderato il Lucianone, che non è, è un po' simile a Merolone in realtà. Ah. Beh, è Moggi superdotato. Questa è la grande notizia di oggi. Mm. Poi c'è anche l'aereo, per carità. Ecco, sì, però, esatto. Sì, però c'è la grande notizia di oggi, è certo. il Lucianone. Non ha parlato di questo Barisoni, ho ascoltato prima. No, hai ascoltato con attenzione, Sì, non ha parlato del Lucianone. Invece noi parliamo del Lucianone. Le misure di Luciano Moggi, è tutto vero. Avverto tutti, è il vero Moggi. C'è un pelo sullo stomaco grosso, così. Ora tu parli di un pelo. Eri un grande bo. Parli di un pelo particolare, no, quello ce l'ho. Quello ce l'hai. Cioè ce l'hai lungo come Rocco. Non mi dire che c'hai. No, lo so io, Rocco, non mi intendo. Quanti centimetri c'hai? No, non mi dire che c'hai. Sei molto dotato. Mortacci, ragazzi. Ma veramente? Mi impaurisco quando lo vedo. Ma veramente stai sì. Ma sei sui 20? Ma anche di più. Ma dai, non ci credo. Mi impaurisco. Amico mio, ma tu te le immagini Moggi superdotato? No, francamente no. Ora, scherzavo, io non credo, perché era davvero serio, Cioè, non è stata un'imbeccata, se n'è uscito lui è con... è venuta così. Ma dice, mi vedo e mi metto paura. Tu quando ti vedi, ti metti paura o no? Quando ti vedi, ti metti paura o no? Con Instrumentum Regni. Esatto, non ti metti paura. Si chiama Instrumentum Regni. Beh, sì, questo è il modo un po' così. Ti metti paura? Ti congratulo. Ti congratuli. Attenzione, Parenzo, quando si guarda allo specchio. Instrumentum Regni. Sì. No, sì. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Questa è la regia che dice così. villaneggia. Vabbè, 800 24 00 24, il numero per chiamarci, lo sapete. E mentre tutto il mondo si interroga su questa cosa drammatica, cioè mentre siamo forse protetti dal terrorismo e nemmeno troppo, sicuramente non siamo protetti dalla follia. No. Dalla follia umana di uno, il copilota, come sapete, che si fa sfracellare insieme all'aereo sulle Alpi francesi. Mentre il mondo si interroga, tutti sono preoccupati, questo copilota era depresso perché è rimasto a guidare un aereo, eccetera, eccetera, tutte le cose che poi magari fra 15 giorni spariranno. Beh, ci sono due personaggi, il nostro amico Salvo Mandarà e un altro tizio che si chiama nostro amico. Sì, vabbè, il nostro amico Mandarà. No, io per niente. 5 Stelle, no. Militante 5 Stelle, e il signor Rosario Marciano. Rosario Marciano. Personaggi terrificanti. I quali soprattutto Marciano, Mandarà no, Marciano sostiene che in realtà è tutta una farsa. Cosa, quella del suicidio, ha scritto, è una cazzata. Ah. Cazzata il suicidio. Chi c'è? Il Mossad. Un depistaggio dietro, a te. Un depistaggio. Ho capito. Un depistaggio. Ho capito. E non solo questo. Sentite. Mm. E chiaramente parlare della sindrome erotossica, cioè una sindrome che imputerebbe la perdita di sensi da parte dei piloti e del personale di bordo e magari occasionalmente anche dei passeggeri, manderebbe il mercato dei voli commerciali a bagno. Poi parla di abbattimento in volo da un caccia. Ricordo che il sito Daily Mail aveva parlato di due caccia che stavano scortando il velivolo, quindi è importante questo dettaglio. È probabile che l'aereo sia stato abbattuto in volo e logicamente questo potrebbe spiegare come mai di punto in bianco si sono ritrovati tutti e tre i presidenti. Poi parla anche di scie chimiche, dice, perché secondo lui quando si abbassa la quota è per spargere le scie chimiche, cioè. Una cosa incredibile. Incredibile! Allora, Cecil Kieng vola in Nigeria, vola in Nigeria per conto dell'Unione Europea, e su Facebook le persone scrivono queste cose. Qualcuno ha già avvisato il gruppo Boko Haram? ISIS, pensaci tu. Pazzesco. Eccetera, eccetera. Ora ecco, dico, di questo bisogna ringraziare la Lega, ad esempio. No, ma che c'entra la Lega con questi pazzi che scrivono contro la Kieng che va in Nigeria? No, che no, c'è? No, un momento, un minuto e 44 secondi, un momento. Però aspetta un attimo, aspetta, poi... io dico una cosa. Sì. Alcuni hanno scritto anche cada l'aereo. Questi stronzi che scrivono queste cose. Bisogna ringraziare per questo clima. No, chiamino da noi, abbiano il coraggio di portare la loro voce, di dirlo. No, di dirlo chiaramente. Non si nascondano dietro un profilo, abbiano. Così magari poi li possiamo denunciare. Più facilmente, no? Cioè abbiano il coraggio di chiamarci, 800 24 00 24, e dici sì, io spero che l'aereo della Kieng cada. Chiamino, pazzesco, così battagliamo. Chiamino signori. Pazzesco. Vabbè, adesso non esagerare pure tu. A proposito di capanna, ieri ieri a Matrix ha replicato la sceneggiata di sempre, cioè con noi faceva così, ti ricordi? Con noi faceva così. Allora mi rivolgo direttamente ai radioascoltatori per dire che con lo zanzariere di Radio 24, alias Cruciani, abbiamo stabilito un patto, che adesso io parlo per un minuto e 25 secondi senza interruzioni. Alla prima interruzione io metto via la commedia. Stesso copione con il signor Telese ieri sera a Matrix, sempre l'uomo del vitalizio, meno 10%, non lo vuole accettare. Aspetta. Tu ti impegno. Ma io me lo sono preso, lo mantengo. Non è rispettato. Quello che lottava contro i privilegi. Abbiamo con noi Mario Adinolfi. Ciao Mario. Bene. Ciao, buonasera. Allora, mi sembra di poter prendere, caro Salam Parenzo. Salam aleikum, califfo. No, ma che c'entra il califfo? Adesso lo paragoni al califfo. Che c'entra il califfo? Dai, senza... ma il califfo taglia le teste, mica vuole tagliare. No, lui divertiti ultimamente. Molto, molto. Adinolfi non è che vuole tagliare le teste, no, dai, fino alle teste non ci arriva ancora, però insomma. È un grande uomo di dialettica, Adinolfi. Allora, abbiamo le unioni gay che sono praticamente passate alla Camera. Tanto al Senato, insomma. Al Senato. Scusa. La pillola dei 5 giorni dopo, una notizia meravigliosa, fondamentale. La pillola dei 5 giorni dopo, le adozioni gay ormai praticamente sdoganate, perché ieri ho assistito a uno show pazzesco della Adinolfi Frocio, ma è stato meraviglioso, c'era, ti giuro, ieri c'era le invasioni barbariche, un personaggio assolutamente simile a te. Nella... Eravamo solo io e te a guardarla, ha fatto il 2,9. Vabbè, solo io e te, adesso... comunque abbiamo visto un personaggio che era, come dire, fisicamente uguale a te, bisogna ammetterlo. Era uno spot di 50 minuti all'utero in affitto, sì, l'ho visto anch'io. C'erano due simpatici. Uno era grosso come me, sì, uno era grosso, ma anche simile in faccia, con la barba, con gli occhiali, i capelli un po' rossicci, diversi. Insomma, era un Adinolfi gay, diciamo la verità. Questo era, era il tinto punto. Lui, a differenza mia. Ma come finto? Che vuol dire finto? Tinto. Ah, era tinto, era un po' tinto nei capelli. Vabbè, ma quello mica sarei contro quelli che si dicono i capelli, perché no, però il mio rosso è vero, diciamo. Ah, vabbè, in questo senso. Vabbè, questi due signori erano omosessuali e alla fine sono riusciti attraverso la fecondazione, no, la fecondazione assistita, come si chiama? L'utero in affitto preso da una signora nera che si chiama Jasmine. A $15,000. Qua, $15,000 a ottenere tre gemelli, i quali erano, come dire, riempiti d'amore da questi due signori. E io devo dire la verità, non mi sono emozionato perché non mi emoziona più nulla praticamente. Però vedevo lì una famiglia formata da due frosci, signori frosci molto anche in carne, l'hanno scelti anche. Uno era in carne, l'altro era magro, più magro. Beh, no, magro, notizia. Beh, mi è eccitato vedere questa situazione. Mi ha colpito vedere proprio questa situazione di due omosessuali. Se ti piace un mondo così. Con tre bambini neonati, praticamente gemelli neri di carnagione, che formava una famiglia. Qual è il punto? Perché questa cosa è un male, caro Mario? Perché? Il punto è che quei bambini erano diventati oggetti di una compravendita. Quindi da persone sono diventate cose, come se compri la macchina di compri figli, non si può. Ma non sono cose, sono persone. Una donna facendo leva sulla condizione di bisogno di una donna, hanno fatto sì che si potesse acquistare la sua maternità e affittare il suo... Vabbè, ma sono tutti contenti. Ma chi è contento? Quella hanno preso $15,000, quelli hanno tre figli, c'è una famiglia, tutti felici. Tu che figli ne hai? Un bambino che è staccato a sua madre dal seno di sua madre, dal rapporto con una mamma, sta bene. Sì, quando cresce, ma quando sei bimbo, staccarli da una mamma perché c'è un contratto di compravendita è un atto di violenza criminale. Per me quello, non a caso, quella pratica è illegale in 190 paesi del mondo. In America è legale. In alcuni stati degli Stati Uniti, neanche in tutti. 190 paesi del mondo, quella pratica è illegale. Sbagliano. Perché la dignità umana non si compra, no, ma non ho capito, si vende, ma... meno che mai una persona. Ma scusa un attimo, meno che mai un bambino. Tu pensi che questa cosa vada vietata assolutamente in tutto il mondo? Io ho visto una famiglia apparentemente felice con due persone che prendono in braccio i bambini. Apparentemente, hai visto uno show televisivo che è un'altra cosa, lo sai benissimo, facciamo sto mestiere. Ma scusa, è stata una narrazione televisiva. La Bignardi si deve vergognare, secondo te? Non ho capito. Ma io assolutamente al posto di Italia Bignardi ti vergognerei. Non avrei mai fatto uno spot del genere. Dunque, sei contento? Io la penso come Domenico Dolce. Vediamo se sono morto. Vabbè, Domenico Dolce la pensa. Se sono gay non posso avere figli. Ma che è così? Ma scusami un attimo. Così. I gay, secondo te, non possono avere figli? Impossibile che abbiano. Secondo me non si può. Non hanno diritto. Se uno vuole adottare, allora i paesi che lo fanno, i paesi che consentono l'adozione, sono paesi terroristi, sono paesi di merda. Dico, sono paesi di merda. Io dico che io, come persona, non potevo ovviamente dire cose che non stanno necessariamente. Dico che io, come cittadino, mi batterò in tutte le maniere che posso. Perché sia vietata questa roba? Perché questa pratica che trasforma le persone in casa. Scusa, allora sei contento che la trasmissione della Bignardi che ieri ha offerto, secondo te, questo spettacolo indegno chiuda? Ma è ovvio, vero? Sei contento? Che casualmente va male, chiude, perché quelle sono cose antipopolari. E sei contento di questo? Sì, e sei contento? Sono contento. Sei... Caro Parenzo, c'è qualcuno su Twitter eccetera che dice solo in Italia può succedere che Moggi dica ai giornalisti eccetera eccetera che il suo organo riproduttivo, main male reproductive organ, is larger than 20 centimetri, è più lungo di 20 centimetri. Ma questa è la cosa più only simpatica in Italy di Moggi. Ma che significa only in Italy? È una confessione, come dire, a cuore aperto. No, i problemi di Moggi non sono questo instrumentum regni. La Dinolfi, che è anche juventino, penso che abbia Moggi come statua, no? Cioè a casa. No, mi sta molto simpatico. Ti sta molto simpatico, diciamo. Consideri la statua, però lo consideri, come dire, un numero uno assoluto, diciamo la verità. Il capo stazione Civitavecchia che riesce a fare il culo a Berlusconi e Moratti, cosa meravigliosa. Beh, come Pignano, mi pare. Come a fare il culo a Berlusconi? Ma tu dici a livello calcistico. Scusa, per anni. Beh, poi hanno cacciato via, però. Per miliardari, ma nella vita funziona così. Ogni tanto sei un po' in. Comunque, hai capito che pure è superdotato, sì. Ha tante doglie del signore, sostiene di avere. Non è che dobbiamo scoprire pure che tu sei proprio super dotato, no, per carità. Adesso non lo vengo a dire a te, evito di avere l'articolo di non so chi è, non so se sia di interesse, però non lo neghi. non confermo e non smentisco. Attenzione, non so se potremmo avere delle doti nascoste della croce, diciamo che sono ho generato figli naturalmente, insomma, vabbè, ecco, generato figli naturalmente, basta che tesserizza, però forse nemmeno quello, però, perché in realtà la fecondazione assistita, però scusa, anche lì non c'è bisogno, come sai, non c'è nemmeno bisogno che sia attivo l'organo sessuale per la riproduzione, io vorrei far presente. Non sono preparatissimo come te, vedo che questa è la tua ossessione, non sono preparato. No, non sono nella mia ossessione, io dico per fare figli, come no, ma non sei preparatissimo, sarai preparato, come funziona? Non penso che senza un'elezione si possa avere un figlio. Ma come no, ma voglia, come no? Devi fare la siringhina, come funziona? Ma no, ma basta introdurre e poi fare quello che bisogna fare. Introdurre, diciamo. Introdurre si può fare in mille modi, anche senza, scusami se te lo dico. Un dibattito abbastanza inutile. Io non so se alle 18:52, no, ma capisco che... Marcegaglia, no, no, quello d'accordo, quello lo ammetto che non è un argomento fondamentale, anche se potrebbe diventarlo in realtà. Di DDL Cirinà però siamo ancora agli inizi, sono state approvate una cosa normale in quasi tutto il... può esserci la crisi di governo, ma quale crisi di governo, ma quando, ma chi, l'NCD non ha il coraggio di fare la crisi di governo nemmeno se Renzi prende a calci Alfano. Se io fossi al Senato, sono stato parlamentare amico di Renzi, fossi al Senato e sono la sicura norma, io chiederei immediatamente un dibattito sulla fiducia, su una cosa del genere. Non credo che i cattolici che sono presenti in Senato possano accettare quel tipo di legge alla fine dell'iter, quindi io la seguirei con un po' più d'attenzione anche proprio politicamente. Ricordiamoci che quell'area popolare, ma sì, ma no, ma non vadano, ma non quelli, un po' i numeri necessari a far ballare un po' queste cose. Ma scusa, l'Italia sta diventando, con la pillola dei 5 giorni dopo, meravigliosa, stupenda, con le unioni gay e forse anche con le adozioni, un paese finalmente, come dire, no, come? Un paese normale, civile, ma dove... dire normale, civile, un paese incivile, ma come un paese incivile, Mario, un paese incivile, la pillola dei 5 giorni dopo, ma è stupenda. La vita del 5 giorni dopo senza ricetta medica, come fosse un'aspirina. Ma perché uno rimane incinta, ha il rischio, c'è il rischio che rimane incinta, io invece non voglio rimanere incinta. E dunque prendi la pillola per evitare altri casini, che per evitare invasiva. Prescrizione medica, ma secondo ma è meglio quello dell'aborto o no? Sarà meglio quello dell'aborto o no? Quella pillola è sostanzialmente abortiva, impedisce l'allannidamento. Certo, è normale. Certo. È l'aborto. Ma non è l'aborto, impedisce poi l'invasività. L'intervento chirurgico, dice, vuoi certo. Dire. Certo. È delicata per la donna, è una pillola delicata per la donna. Ma come tutte le cose. È una pillola delicata. Io dico, come l'alcol. Delicata anche. Bisogna almeno la ricetta medica, almeno quella. O c'è un'ideologia che... è assolutamente così applicabile come fosse un aspirina. Per me quello è un essere umano, pensa te, per quel coso lì che tu pensi che sia eliminato con una pillola, per me è un essere umano. Cioè dopo 5 giorni già è un essere umano, secondo te? Dopo... Dici, quando è un essere umano? Per me è un essere umano. Vabbè, ho capito, ma è un discorso troppo lungo, dai, è un discorso troppo lungo. Quando ha gli organi formati, se non altro. Ma sì, ma insomma, quando lo prevede la legge, quando la legge prevede che si possa abortire, che non si possa più abortire, quando la legge lo prevede. Ma tu sei contro l'aborto, è chiaro, tu sei il giorno 90 non è un essere umano, il giorno 91 diventa un essere umano. Ho capito, ma qualche limite ci deve essere, altrimenti non esisterebbe la legge. Beh, se è come la... dire, si diventa maggiorenne a 18 anni e esatto. Non prima. Ma non è che a 17 e 11 mesi ti ammazzano. Comunque cioè, il tuo nuovo capo dal punto di vista radiofonico, ma ovviamente non è un capo, che è Don Livio Fanzaga, sostiene che i divorzi aumentano perché il marito è abituato a una madre che fa tutto e la moglie no, capito? Non l'ho capita perfettamente, però insomma, se i divorzi non ci credo, c'è ragione. Ah, basta che parla d'Olivio per te, va bene. Fate Livio, la missione della donna è preparare pranzi. Che sai, una trasmissione Radio Maria, certo, come no, la auscultiamo ogni giorno. Il mormorio di un vento leggero. Scusami un attimo, ma davvero, come dice lui, è la missione della donna è preparare pranzetti al marito? Ha detto così, Ma non penso che abbia detto una cosa. Ti assicuro, ha detto così. È talmente immensa, capito? La cosa più fondamentale. Vorresti fare gli auguri? Fai gli auguri ai Marione Adinolfi, a Tinto Brass, che oggi compie 83 anni. Ma che c'entra? Volentieri. L'ho intervistato due volte. Una persona quando non eri sbroccato. Ciao Mario. A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Ma qui è tutto un casino che siamo. Ma dove stiamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. La Allora ragazzi, a me ancora sconvolge l'idea di Luciano Moggi superdotato, veramente mi sconvolge questa cosa, ci ho riflettuto tutta la notte, caro Parenzo. È la cosa che ti sconvolge, a me non sono riuscito quasi a sconvolge la vedita dell'Airbus. Sì, vabbè, quello d'accordo, ma no, per le modalità, non perché sì, d'accordo, io non sono riuscito a dormire la notte, questa notte, con l'immagine di Luciano Moggi. Luciano Moggi che ieri ho visto, non mi nascondo, è una persona che con cui ho rapporti, diciamo, di amicizia, diciamo di conoscenza, di amicizia, no, di amicizia, no, di conoscenza. Beh, di conoscenza, lo stimo, eccetera eccetera, ma non me ne frega niente di andare controcorrente, a me non me ne frega un cazzo, capito, di dire queste cose qua. Penso che sia stato un grande dirigente del calcio italiano, ma al di là di questo, l'immagine di Lucianone, mamma, che sfodera il Lucianone, di Luciano che sfodera il Lucianone, beh, amico mio, mi ha colpito tutta la notte, perché poi me lo immaginavo in azione, no? Me lo immaginavo all'opera, ma il Lucianone. Ma chi? Ed è capito, normale per te questo? Ma ho capito, non sarà normale, ma... No, beh, almeno ammettilo, no? Okay, facciamo risentire, che è meglio, facciamo risentire, perché qualcuno non ci crede ancora. C'è un pelo sullo stomaco grosso, così ora tu parli di un pelo, eri un grande parli di un pelo particolare, no, quello ce l'ho, quello ce l'hai, cioè ce l'hai lungo come Rocco, non mi dire, no, che c'hai, no, lo so io Rocco, non mi intendo, quanti centimetri c'hai, no, non mi dire che c'hai, sei molto dotato, mortacci ragazzi, ma veramente impaurisco quando lo vedo, ma veramente stai sì. Ma sei sui 20, ma anche di più, ma dai, non ci credo, mi impaurisco, mi piace un mondo così. Adesso incazzatevi pure, non per Moggi, per carità, ma per un privilegio che ha ancora uno dei grandi boiardi di Stato, che si chiama Pietro Ciucci. Pietro Ciucci ed è il grande capo delle strade italiane, l'ANAS controlla autostrade, strade nazionali, eccetera eccetera. Questo signore ha ancora una cosa che si chiama, ti giuro, No, sentite, è previsto che abbia l'accompagno, il diritto di accompagno. L'accompagno? Sì, è previsto che abbia l'accompagno. L'auto blu, cui hanno rinunciato tutti, quasi tutti, non è una Maserati o una Mercedes, dice, ma una Ford Mondeo. Beh, 1600 vabbè, di cilindrata, modesta, come se fosse una merda, no? Non è una Maserati, una Mercedes, ma una Ford Mondeo. 1600 di cilindrata, scelta in base alle regole della Spending Review, è dotata di girofaro, lampeggiante e paletta, perché in quanto presidente di ANAS io sono un dirigente della polizia stradale. Cioè, tu capisci la follia, no? Questo qua, tra l'altro, signor Ciucci, ha preso una liquidazione in un modo un po' bizzarro. Cioè, lui è in pensione, ha preso una mega liquidazione, una cosa del genere, di 1.800.000 euro, e ha ancora la carica di amministratore delegato, eccetera eccetera. Ma lasciamo perdere questa roba qui. Queste sono cose, no, da pesci cani. La cosa incredibile è un'altra. Teoricamente posso fermare le persone e fare contravvenzioni, dice. In 8 anni credo di aver usato il girofaro 3 volte, sempre per motivi concreti. L'auto mi viene a prendere tutte le mattine alle 8, a volte anche prima, e mi riporta a casa alle 9 di sera. 5 giorni a settimana, la uso esclusivamente per andare a lavorare. Ma... hanno mai visto la mia auto fuori da un ristorante o da un cinema? Hanno mai riscontrato spese strane o utilizzi impropri della carta di credito aziendale? No, perché non faccio queste cose. Comunque, la cosa più incredibile è che si chiama, lui dice, è previsto che abbia l'accompagno. Beh, sì, ho autista, te fa ridere il nome, ma l'accompagno! L'accompagno. Ma perché uno non deve usare l'auto propria? Beh, questo l'auto propria. Beh, è un benefit, l'auto propria, l'auto, no? Ma è lo Stato che paga, che hanno... lo Stato, sì, paga, ma anche tanti direttori di giornali ce l'hanno come ma benefit, quello pagano, no? Le aziende, che me ne frega, certo vabbè, in questo caso lo Stato di perché il presidente sbagliato di Eni, rinunciare, il presidente dell'Enel, quelle diverse sono delle aziende quotate, ma comunque anche in quel il caso il presidente delle Poste, la macchina te la paghi tu, se sei dello Stato sono la macchina te lo paghi tu, sono benefit aziendali, a me non mi interessa l'accompagno, la polizia stradale, ma che c'entra, tu dai, sono benefit, certo che sono benefit, appunto per questo ne stiamo parlando, perché sono benefit, no? Sì, però questo non mi, vedi, so che adesso si arrabbieranno, dai, però su, a me questa roba qua non è che mi scandalizza, il fatto che un dirigente di una grande azienda pubblica, ragazzi, io no, abbia l'autista o l'accompagno, io non chiamalo so, come non fa, so che cosa ti, non so cosa ti, ormai a te non ti scandalizza più nulla, no, no, non ti scandalizza, non più nulla, non è questo, no, signore, momento, invece di un momento, un minuto e 44 secondi, la vicenda di Incalza mi scandalizza molto, ad esempio, ma un che momento, c'entra Incalza? No, un momento, abbiamo concordato. Mi scandalizza molto quello che ha scritto una tua amica, caro Cruciani, chi è, che se chi fosse è vissuta negli anni 60 all'università la Sapienza di Roma, l'avremmo presa a calci nel sedere e cacciata, sarebbe scappata come un coniglio. Fermo, Daniela Santanchè scrive, che ha detto? Che origine hanno i piloti dell'autobus caduto? Sì, ha fatto 2 gaffe con un solo tweet, sì. Allora, amico mio, amico mio. Che dobbiamo fare? Amico, io dico solo amico, anzi amica. Ha scritto mia, una cazzata, Danielina, ha scritto una Danielina. Cazzata, appunto, ha scritto ma una no, cazzata. Ma no, lascia stare l'autobus che magari può essere un lapsus anziché messo insieme all'origine. Anziché Airbus, ma io questo glielo condono, glielo perdono. Ma che origine hanno i piloti? Che cosa erano stava ariani, insinuando? Erano ariani poi. Cosa si gli è scoperto stava che erano mangiatori di wurstel e di birra, uomini del nord. Dai. TG3. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Emerge una terribile verità sul disastro dell'Airbus. Il copilota, solo in cabina, ha impedito al comandante di rientrare e ha fatto precipitare l'aereo. Chi era il copilota? Andreas Lubitz, 28 anni, tedesco, sospese il corso di volo forse perché depresso, nessun legame con ambienti terroristi. Perché solo una persona in cabina? La Lufthansa in Europa si può, decidono le compagnie, in arrivo nuove procedure, i parenti sul luogo del disastro. Boom di contratti a tempo indeterminato, più 38% in due mesi, Renzi l'Italia riparte, Draghi economia più forte ma avanti con le riforme. Antiterrorismo, dopo le polemiche stralciata la norma che consentiva l'accesso ai computer dei cittadini, Italicum il premier accelera. I sauditi attaccano l'aeroporto di Sana'a in mano ai ribelli sciiti, con Riyadh e altri paesi sunniti pronto un attacco di terra, l'Iran è a rischio escalation. Per i gay stessi diritti delle coppie sposate, in Senato primo sì in commissione al testo base sulle unioni civili, asse PD 5 Stelle, contrario al nuovo centrodestra. Massimo da Milano, Massimo vai. Eccoci, Massimo. Serata puntata ludica. Ma questa puntata ludica, non esistono politica. Puntate ludiche e non ludiche, esiste solo la zanzara, non ludico, esatto, non ludico, esatto. Eccetera, vai. Bravo, allora senti, volevo portare una testimonianza in quanto nel 98-99 circa, sì, abbiamo fatto questa partita di calcetto, sì, a Smara di Milano, c'era Luciano Nemoggi, sì, siamo andati negli spogliatoi, sì, io avevo un'immagine come quella... Probabilmente vedi tu questo uomo, tra l'altro premetto sono interista, quindi sì, pure sì. Però hai fatto una partita di calcetto insieme a Moggi, però, questa è la cosa. Esatto. Siamo andati ma non c'è sta a raccontare una cazzata, no? No, giuro. No, giuralo davanti a davanti a davanti a Parenzo. Davanti a no, sì, davanti a Parenzo un male cazzo. Che però si salva perché essendo ebreo ce l'ha circonciso, quindi vabbè adesso non che ce l'abbia piccolo però... nessuno l'ha detto, anzi no, al contrario solo, non ci sono testimonianze in proposito. Poi ragazzi, che voglio dire, ma non è che poi averlo piccolo significa essere ma è un problema, che ne sai che è un problema averlo piccolo, se vuoi affrontare il tema è oggettivamente un problema. Comunque continuiamo con la testimonianza, per chi ce l'ha è un problema. Vai, andiamo negli spogliatoi, ci mettiamo nudi e quando lo vedo dico, ammazza, a Luciano, io sono interista. No, dai, non ci credo. Giuro, dai, non ci... giuro, dai, dimmi, giuro. Giura su tua madre. Giura su tua madre. Su mia madre, giuro. Lo giuro. Stai giurando tu. Sei andato negli spogliatoi. Punta, negli sì. Punta. No, come l'hanno capito? Sai, punta. Cappella, ah, grossa, sì, una... grossa. Ed è come dicevi tu. Scusa. Io chiedo scusa un attimo. Attenzione, è normale, Barzotto, secondo voi, Barzotto, che uno. No, un momento. Freddo, no, un momento. Freddo, momento. Quindi, solito, sai quando sono normale. Sono freddo, non è come è normale, secondo voi, cari ascoltatori, non chiamanti e ascoltanti. Aspetta, fermo. Che un signore telefona alle 19:29 con Pongo 800-24-0024 e giurando sulla madre, questo è il punto chiave, esatto, del mio intervento, del mio soliloquio. Allora? Giurando sulla madre, interviene commentando l'instrumentum regni del signor Moggi. Secondo uno, voi, ragazzi, chi è normale? Luciano numero uno. Cruciani, così non va, però sei uno stronzo. Adesso con questa storia dei 20 centimetri c'ho la fila di donne sotto casa, non posso uscire. Ho capito, Luciano, ma l'hai detto tu, mica Non è colpa mia. Vabbè, come non è colpa mia? Ragazzi, io mi impaurisco solo a vederlo, ma sei stato tu a tirare fuori sta storia, mica io. La Zanzara 800240024 per chiamarci, linee aperte. Massimo Milano ci raccontava una storia incredibile. È andato negli spogliatoi con Moggi nel 1998. Non è che le misure cambiano nel tempo, eh? Certo. E ha scoperto quello che noi abbiamo scoperto tanti anni dopo. Cioè, Moggi super dotato. Ma quanti centimetri era? Davvero è possibile quello che ha detto Moggi? Oltre i 20? Assolutamente sì. Tra l'altro, come stavo dicendo prima, faceva freddo, quindi di solito col freddo picciolisce, invece grande Lucianone era veramente. Ma com'era? Com'era? Cioè, proprio la parte superiore era una cosa pazzesca, com'era? Sì, esatto, la parte superiore è veramente notevole. Io sono rimasto quando l'ho. Perché poi, sai, come sì. Tu, probabilmente ieri avevi questa immagine pelato così un po'. Vabbè, non è che i pelati non possono essere superdotati, no, scusami. Non dà l'idea di uno superdotato, bravo, questo non c'è dubbio. Perfetto, invece poi quando andati in spogliatoio. E poi comunque, guarda, io parlo, dico, sono interista, quindi parlo veramente super, vado sempre controcorrente, ve lo considero, adesso parlando un po' più seriamente, comunque lo considero comunque uno capace, perché in questo periodo lì, al di là poi degli errori. Comunque, ragazzi, la battuta migliore adesso l'ha fatta. Numero uno, anzi, posso consigliarti di invitarlo nella tua trasmissione mega, dove ci sono queste sventole da paura. Secondo me lo guardano, perché adesso ci sarà questa. Lo guardano. Tu portalo lì in mezzo alla casa e l'altra. Dove? Sì, Titaca, lì. Portalo lì. Ma che ne so, mica decido io. Tutto è importante. Sei un personaggio. Vabbè, ma no, ormai non decido un cazzo. Ciao Massimo. La battuta migliore, Parenzo, è un'altra che è stata fatta adesso dall'ottimo Marco Aguilani su Twitter. Si era sempre parlato della cupola di Calciopoli e nessuno che sapeva della cappella di Moggi. Devo dire che non è male. Fabio da Bergamo, vai. Sì, pronto. Dimmi. Ciao, aspetta che abbasso la radio, sennò Cruciani sbrocca. Beh, bravo, vedo che hai capito tutto. Ero ieri a Bergamo, caro. E chi non se ne frega? No. Lo sanno tutti che Parenzo era Bergamo. Vai, dimmi, dai. Niente, tu, una proposta che voglio farvi. Io adesso ti chiamo dottor Cruciani, perché io voglio proporre la Zanzara come terapia. A me ha funzionato e funziona. Cioè, in che senso? Come ti funziona? Allora, io alle 6:30 ho un mal di testa pazzesco, cronico, i problemi miei. Accendo radio, ascolto la Zanzara, cazzo, mi passa. Ma veramente, ma non sto scherzando. Vabbè, Fabio, però adesso rilassa il sistema simpatico, tutto come cavolo si chiama, non ho idea. Cioè, però tu hai il mal di testa, stai male, accendi la radio e in qualche modo ti rilassi. Ma non è una trasmissione perfetta, proprio rilassante con la Zanzara. Cioè, quante soggetti. A me funziona, però io adesso è una trasmissione un po' da sangue e merda, però forse sangue e merda funziona anche per questa roba. Cruciani e Parenzo, non lo so. Cosa vogliamo fargli fare? Il barelliere? No, adesso non esageriamo, facciamo quello che dobbiamo fare. Fabio, grazie. Gianluca Torino, vai. Gianluca. Sì, ciao. Dimmi. Senti, io volevo parlare a proposito dei due omosessuali e della storia dei bambini e dei figli. Perché secondo me è un atto di egoismo estremo, proprio un'aberrazione della famiglia. Eccola qua, l'aberrazione e l'adozione gay, avanti. Io ho sentito ieri voci bellissime, voci fantastiche, affetto, amore. Poi certo, l'immagine dei due gay un po' sovrappeso, soprattutto uno, con i capelli tinti di rosso e la madre non vera, cioè la madre surrogata, che avevano pagato $15,000, nera. E soprattutto una frase che vi faccio ascoltare adesso, ed è la frase di uno dei due, non mi ricordo come si chiama, quello americano, canadese, Mirko, che dice: a un certo punto, insomma, appena abbiamo saputo che il bimbo poteva essere di colore, siamo rimasti un po' così, perché non lo volevamo all'inizio di colore. Questo può far incazzare, certamente. E poi perché, adesso stupidamente, ma per mezz'ora ce l'ho avuta sta cosa, Jasmine è di colore e noi avevamo abbandonato l'idea di avere un figlio di colore quando l'adozione si era arenata, quindi ci eravamo abituati ad avere un figlio bianco. Ed ecco che tornava il bambino di colore un'altra volta e quindi, insomma, in mezz'ora ho capito, insomma, se ero pronto 3 anni fa ad avere un bambino mulattino, perché no? E poi ho detto, no, ma è bello avere un bimbo mulato. Capito? Gianluca? Io ho capito, ma vi rendete conto? Ma poi quello che mi fa. Questa era italiana, ovviamente, non era l'americana. Ma quello che mi fa incazzare è che oltretutto vanno nei paesi dove poi queste cose sono legali. Vabbè, vanno a pagare, diciamo la verità, pagano delle persone. Pagano delle persone, come si paga anche, scusa, ma per fare i bambini uno va in una clinica privata, paga, no? Cioè, vai alla Mangiagalli a Milano, qui. Beh, oppure... però è un po' diverso. Ma è uguale, questo, vai in una clinica privata a Roma o a Milano, paghi per partorire. Questi qua pagano per partorire. Non è la stessa cosa. È uguale. Dai, dire che è uguale non puoi. È come dire, vado il concetto adesso di pagare. Dirai anche lo voglio bianco, lo voglio con gli occhi azzurri. No, lo voglio... ma questo qua può succedere, ma sono come dire. Non è la cala carte, cioè non è. Sì, ma voglio dire, ma se uno vuole avere un figlio, ma se uno vuole avere un figlio e non lo può avere, dà a questo figlio amore, tenerezza, lo cresce, eccetera, eccetera, e lo può ottenere tramite i soldi e tramite alcune tecniche scientifiche avanzatissime. Ma io non capisco qual è il punto. Addirittura impressione il fatto che questo figlio dei due genitori non abbia nulla. Cioè, in questo caso sì, ma io quello che ho sempre detto è che dei due se anche i due genitori sono non c'è nulla di loro, viene inseminato da un altro, un'altra lo partorisce. Se c'è il consenso di tutti, ma va bene, il consenso adulto di tutti. Questa Jasmine, a un certo punto, questa nera che ha tirato fuori questi tre gemelli con i suoi ovuli, ma con il seme di un altro, di una terza persona, in questo caso, è una che dice: ho pianto, ma erano in buone mani questi qua. Questo dice questa Jasmine. Però, ma non è una cosa ha guadagnato normale. 15. Ma come non è normale? Che sarà normale? Beh, no, che cosa? Non puoi dire che è normale costruire un figlio in questo modo di costruzione. Anche per te è costruito allora. Comunque sentiamo questa Jasmine. Voglio sentire questa Jasmine, aspetta. Quando ho lasciato l'ospedale ho pianto. Ero davvero molto triste perché per 33 settimane erano stati con me in ogni secondo di ogni giorno e avevo percepito ogni loro movimento. Sapevo cosa facevano, sapevo sempre se stavano dormendo, se erano felici e qualsiasi cosa capitasse loro. Quindi essere separata da loro è stata una sensazione molto strana, ma allo stesso tempo avevo un senso di pace perché ero certa che sarebbero stati in buone mani. Allora Gianluca, chiudiamo questa storia, dai, chiudiamo. Sì, allora, potrei almeno capire se fossero andati a prendere un bambino in un orfanotrofio, no? Ma così è veramente una schifezza. Poi tutto tornano e con la storia del diritto delle coppie di fatto, che è giusta secondo me, pretendono di essere tutelati su una cosa. Ragazzi, che è una quei tre figli sono nati in alcuni paesi, sono figli loro, non rompete gli coglioni. Segreteria Zanzara 02 46 52 40 10, 02 46 52 40 10, vai. Allora Cruci, ti si può chiedere una cortesia? La sera, quando uno sta a casa che gli si fa due gamberetti, potresti evitare di chiedere a Dinolfi se usa il preservativo, di mandare Ferrara che parla di pippe? Ma tu hai un'idea dell'immagine di Adinolfi che si ravana lì, che cerca di indossarsi il goldone? Ma stiamo scherzando? Ma è una cosa disgustosa, è una cosa che fa schifo all'orario di cena. Parenzo, riesci a farmi diventare simpatico anche oggi? Mi sti odio con tutto me stesso. No, Luciano oggi no, per favore, ho cambiato. Cioè, veramente, Cruciani, perdonami, ho tollerato dell'Utri, anzi, per carità, nei limiti del suo essere criminale, anche simpatico. Perfino Fiore, cazzo, Fiore, mamma mia, proprio la feccia. Ma Luciano oggi no, ho cambiato. Cruciani, io vorrei chiederti, ma fra 10 anni, 20 anni, ma come ti vedi proiettato te con questa tua volgarità proprio insopportabile? Sei proprio la feccia dei giornalisti, io non so come fanno a non radiarti dall'albo, guarda. Ma poi il presidente Squinzi rimane indifferente a questa tua volgarità, sembra una radio proprio, una radio riborgata. Sono veramente dispiaciuto. Pensavo che sul volo Barcellona-Düsseldorf ci fosse anche quella merda di Parenzo. E invece è ancora lì. Vabbè, anche la mia bottiglia è ancora in frigo. Quando succederà, grande brindisi. Beh, Parenzo, abbiamo chiuso in bellezza questa segreteria, no? Mamma mia. la gente che si augura la morte di Parenzo sull'aereo appena ferro, caduto, una cosa pazzesca. 30 secondi, poi torniamo sulla vicenda di Pre Tommasi, ci torniamo a modo nostro, sentite, perché ci sarà una cosa fortissima se riusciamo a contattare una persona maledetta, è a Praga, maledetto. La Zanzara è il più grande bar d'Italia. È un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, no, da chiudere subito, guardi, da chiudere. Allora, piccola parentesi, intanto cerchiamo di chiamare Andrea Di Pre, Andrea Di Pre, perché così lo martelliamo un po', Parenzo, per questa vergogna che di sfruttamento di una che sta male. Però la parentesi l'apro su questo: la signora Selvaggia Lucarelli, che ha realizzato l'intervista in cui sono anche stato citato, quelle cose che sappiamo, e praticamente se la prende con una sua redattrice. Senti cosa scrive: per concordare l'intervista dalla mia redattrice Alessandra, la quale mi ha garantito che era normalissima. Cioè, la redattrice Alessandra del programma ha garantito alla Lucarelli che era normalissima la Tommasi e che hanno deciso tranquillamente l'orario. Non immaginavo il suo stato. Come è evidente da tutto. Non avevo alcuna comunicazione con lei dall'ultima volta che l'ho vista. Non avevo avuto alcuna comunicazione. Quasi un anno fa. Se l'avessi sentita prima in quello stato non l'avrei chiamata. Vabbè, lasciamo perdere queste puttanate che non interessano a nessuno. Cerchiamo di chiamare Di Pre, eh? Di Pre, critico d'arte, presunto critico d'arte, che vuole sposarsi con la Tommasi sfruttando la situazione. Pronto? Signor Di Pre? Sì? Ciao, sono Cruciani, come stai? E Parenzo? Oh, ciao, che piacere. Ciao. Come va? Senti, bene. Che hai combinato con la signora Tommasi? Sta male, non la sfrutti? No, e allora io con la signorina Tommasi sono ufficialmente fidanzato. Sì. Ci vogliamo bene. Sì. E il 24 maggio ci sposiamo. Sì, amico mio, la signora Tommasi, tu puoi annunciare quello che ti pare, ma la stai sfruttando, sta male, stai sfruttando questa situazione. No, ascolta, allora. C'è un fidanzamento stupendo, sì. E devono smetterla di rompere i coglioni, a due persone che si vogliono bene. Sì. Abbiamo diritto ad un rispetto totale e assoluto. Tutti quelli che si mettono contro sono dei coglioni, testa di cazzo, che non capiscono cosa vuol dire un sentimento, sì, quasi paragonabile a quello di Petrarca o Dantesco. No, ma io voglio... Professore, però un istante, scusi, esatto. Mettiamo in ordine le professor cose. Professor Di Pre, sì. Professor Di Pre, scusi. Beh, innamorati, benissimo. Noi l'abbiamo sentita, non ci è sembrata moltissimo in sé. Esatto. Questo diciamo, cioè, amico mio. No, ma anche prima di Petrarca, sentirla. Petrarca, Manzoni... Ma è il suo modo di fare. Comunque, io ci tengo, adesso sono qui a Praga in questi giorni. Sì. Torno sabato. A Praga. Amico mio. Ecco. No, però Andrea, scusami un attimo. Come i promessi sposi. Sì, vabbè, i promessi sposi, Petrarca, quello che ti pare. Michael, a me sembra di potersi sei dire. Sei Don Rodrigo tu. Tu sei Don Rodrigo, altro che promessi sposi. No, però scusami, Di Pre. No, veramente, basta, perché noi siamo una coppia normale, una coppia di fidanzati che si sposerà. Normale. Ma non è vero, non è vero. Ma è una trovata pubblicitaria tua, amico mio. Sta male, stai sfruttando una ragazza che sta male. La pubblicità. Ma cosa cazzo me ne frega della pubblicità? A me non me ne frega un cazzo, meglio l'Italia di niente. Io sono un capo di religione. Sei? Sono stato di prismo. Va bene. Ma quale religione? Quale religione? Allora, cos'è sta roba? Allora, ho deciso, cos'è il dipreismo? Che cos'è il dipreismo? È una religione fondata sul sesso, sulla droga e sul denaro liquido. Sesso, allora, droga e denaro liquido. Vabbè, chiamiamo l'ambulanza, dai, su. C'è un feeling fortissimo. Feeling. Adesso arriverà il matrimonio. E se volete vi invito pure. No. È una roba da mal vissuti, ma stai scherzando. Il problema è un altro, il problema è che non è un matrimonio con una ragazza qualsiasi, no. È una ragazza che sta male e tu che hai ancora un minimo, di lucidità. Ma sei sempre già a scavalli, ma sei sempre divertito, ma stiamo scherzando. Ma è sempre già a scavalli. Ma che me ne frega che è nei locali? Però io dico solo una cosa. A me interessa che avere la serenità, ripeto, la serenità, essere serenity per vivere il rapporto con la Tommasi come ogni coppia normale, cazzo, ho diritto di far questo. Ma non basta rompere i coglioni con sta storia. Sta male questa ragazza, ha bisogno di aiuto, non di Dipré che si sposa, che si vuole sposare, che cerca l'ennesima uscita mediatica. Ma cazzo, ma come ti permetti di dire questo della mia ragazza? Ma quale ragazza? Ma smettila che sta male. Vergognati, sta male, ti devi vergognare, ti devi vergognare, sta male. Sarete male voi, dai, sembra, non scherziamo. Ma io lo sto dicendo sul serio che sta male. Ti devi vergognare, dovresti smettere con questa storia del matrimonio. Sta male, sì, basta. Sì. Ma questa storia, ma cosa stai dicendo? Che c'è tutto pronto. Ma loro, ma tutto pronto, non si sfruttano le persone così. Lui a Praga. Ma lascia perdere che sta a Praga, non è quello. Se io ho deciso a un certo punto di sposarmi, vabbè. Se la ragazza è contenta e felice di me, ci sarà un motivo, quindi basta. Ma non è possibile, non è così. Ma non vogliamo rovinare niente. Il punto fondamentale è che questa ragazza... Anzi, per piacere, dite adesso che siete felici. Sì, sicuro. Sposerò la Tommasi e che finalmente il dipreismo può concretizzare. Sì, certo. Non c'è dubbio, va chiamata la forza. Scusa, il... Il dipreismo, eccetera. Tu che droga usi, dato che la tua religione è sesso, droga e denaro liquido? Che droga usi? Ma ascolta, le droghe sono lo strumento per superare malattie, incidenti, vabbè, violazioni. Sì, sicuro. Le droghe sono lo strumento per superare le malattie. Tu che droghe usi? Ma che droghe usi? Mi dici che droghe usi? Tutte. Pronto? Le droghe vanno tutte bene. Quale droga usi tu? La cocaina, l'eroina, l'hashish, le pasticche, il crack? Che usi? Ma io sono a favore dei cristalli. Dei cristalli? Usi i cristalli? No, ma sei a favore o no? Che cosa usi? Ma non c'entra niente. Ma allora, c'entra? Come no? C'entra benissimo, perché mi sa che sei sotto effetto di qualcosa. Allora, voi state parlando con un avvocato. Un avvocato che sei stato radiato dall'ordine, peraltro. Radiato dall'ordine. No, radiato no, sospeso. Sospeso, vabbè, dopo. Beh, su. Vabbè, non è carino, però, vabbè, per carità. Poi? Sono il più grande critico d'arte. Alla grande, sì. Mondiale. E Sgarbi dove lo metto? A livello mondiale, sì, vero. Di opera d'arte mobile. Sì, opera d'arte mobile, poi? Quindi, state parlando di una persona che è di un livello intellettivo superiore alla media. Sì, vabbè, d'accordo. Opera d'arte mobile. Vabbè, non è importante. Comunque, vi dico solo una cosa. Mi dispiace, spero che siate a favore, mi dispiace per voi, ma c'era Tommasi, ormai il rapporto concretizzato. Sì, ma a me non me ne frega niente. Bisogna impedire che tu sfrutti ancora questa ragazza, capito? Chiaro? Impedire. No, qualcuno dovrebbe impedire, poi chi se ne frega, fate quello che volete, che me ne frega a me? Cioè... Se io mi opponevo al tuo matrimonio, cosa avresti detto? Ma quale opponevo? A me non me ne frega niente, fate quello che vi pare, ti sto dicendo che ti dovresti vergognare di questa roba qua, perché questa ragazza non va più sfruttata, basta. È stata troppo intervistata, anche in passato, anche da noi, quando ancora avevo un minimo di lucidità. Però riconoscete che siamo insieme, riconoscete... Ma non riconosco nulla, smettila con questa storia, voglio capire che droghe usi. Con Dipré tutta la notte, coca e mignotte, va bene, però... Vabbè, ma ragazzi, di che stiamo parlando con Dipré tutta la notte? Ma è una roba da delirio totale, ma dovrebbe intervenire la forza pubblica per impedire questa roba qua. Che è successo? Vabbè, è caduta la linea. Caduta. La forza pubblica, i carabinieri, altro che i carabinieri, tutti. Comunque mi scrivono autorevoli avvocati, che in realtà questo signore, questo Dipré, rischia di essere condannato, ma lui non gliene fregherà niente perché è completamente fuori, per circonvenzione di incapace. E il matrimonio poi potrebbe anche essere nullo, per vizio del consenso, eccetera, ragazzi. È tutta una trovata. La cosa più triste è che qualcuno, intervistatori, eccetera, sfrutti questa situazione sulle spalle di una che sta male. Purtroppo i genitori non se ne possono occupare. È così, siamo allo sbaraglio, e quando una persona è totalmente allo sbaraglio, almeno evitare di farla straparlare, o no? Vabbè. Poi chi se ne frega, fate quello che vi pare, vaffanculo, va. Amici miei, siamo al flop. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Agli amici di Radio Maria, come Don Livio Fanzaga, piacciono i divorzi impossibili, cioè non, secondo loro non si dovrebbe divorziare. Ma perché non tornano nel Medioevo? Perché non tornano in epoche buie. Per quale motivo? Molti matrimoni vanno in malora dopo 3 o 4 mesi, secondo voi, per quale motivo? Ci saranno molti motivi, ma uno dei motivi, sapete qual è? È che presente il marito scopre, abituato a avere tutto da sua madre, gli cucina, gli lava, gli lava, usa la lavatrice, gli stira. Il marito si rende conto che sua moglie sa fare niente. Allora, io però, siccome ho grande stima, se volete, dal punto di vista, come dire, dell'arguzia di padre Livio Fanzaga, non ci posso credere che uno dei capi assoluti di Radio Maria, che è una radio comunque importante nel mondo cattolico, nel mondo conservatore, nel mondo reazionario, si potrebbe dire, no? Lo dico apertamente. Beh, qualcuno sì. Allora, altri... signor Don Livio Fanzaga, possa davvero pensare che il matrimonio, a parte che non è vero che dopo 3-4 mesi vanno a puttane, magari vanno a puttane dopo un anno, due anni, le statistiche non dicono questo, caro Fanzaga. Allora, non posso pensare, credere che uno come Fanzaga dica cose di questo tipo. Siccome il marito è abituato a essere trattato bene dalla madre, arriva a casa, trova la moglie che invece non fa un cazzo, e allora le coppie scoppiano. Le coppie scoppiano perché non si tromba più. Fanzaga, lo devi dire a Radio Maria. Le coppie, i matrimoni scoppiano quando non si tromba più. Fanzaga, la verità, avvicinati al mondo reale. Fanzaga, amico mio, Don Livio, lo devi dire, dillo apertamente a Radio Maria. Le coppie scoppiano e questo è un problema. Sì, sì, lo vorrei dire io a Radio Maria. Voglio fare un intervento a Radio Maria. Beh, questo non credo. Esatto, le coppie scoppiano perché non si tromba più. Altro che la moglie, il ruolo della madre, eccetera, eccetera, tutte puttanate. Però andiamo ancora su Don Livio Fanzaga, il quale dice che la missione della donna è questa, sentite. Una vera e propria missione per i pranzetti al marito, lo faceva anche la Madonna con San Giuseppe, non so io, voglio vedere io se cucinava San Giuseppe o chi. Vabbè che Gesù di cucinare era capace, quindi di aver imparato da sua madre. Andiamo con Antonio da Roma, vai Antonio. Niente, Luigi Milano, vai. Luigi. Pronto? Dimmi. Ah, ciao carissimo. Io sono un po' preoccupato perché la tua posizione sulla Tomasi la posso comprendere, però anche tu è più di un anno che sfrutti chi? Una persona evidentemente malata, cioè Parenzo, che non è più in sé, che straparla da un anno. Quindi non è molto diverso. Non vuoi fidanzarti con lui, però in ogni caso lo sfruttamento dell'incapacità. Questo Luigi è simpatico, devo dire è simpatico. Grazie. Cioè, da un anno che lavora alla battuta, però è simpatico. Oltretutto, volevo rilevare una piccola cosa. Sì. Che è un escalation, perché prima si proponeva come il moralista, vabbè, il solito ben pensante, classico, peloso a volte, però ultimamente invece si è reso l'uomo normale, la normalità. La cosa più noiosa che esiste al mondo, si sta ammazzando la trasmissione. L'amico di Carigio non ride più. Bravo, bravo, questo arriva è vero. Arriva a casa e si fa. Ma adesso non esageriamo. No, per non esageriamo, ma ha ragione Luigi. Sostanzialmente Luigi ha ragione Luigi. Cioè, ogni tanto con quello che dici ci facciamo due coglioni così. Andrea da Treviso, vai. È il buon senso. No. Luigi ha individuato un elemento. Andrea da Treviso, vai. Un saluto Radio 24. Dimmi. Sono dei comitati Palmer, volevo dire. Che cos'è, scusa? I comitati Parmalat. E volevo dire, ma che cazzo ce ne fregano di comitati Parmalat? Scusa, sbagliato trasmissione forse, signore. Adesso ve lo spiego subito. Ci dispiace se ci sia quel disastro aereo. Sì. Però noi cosa dobbiamo dire? Che è 40 anni che stiamo subendo da una classe politica che li combina tutti i colori di fatti. Ma che c'entra questo col disastro aereo? Scusa, combina. Cioè, allora tu stai facendo un legame tra il disastro aereo e la classe politica italiana che ci governa male da 40 anni, 50 anni. Scusa, mi potresti individuare un nesso tra queste due vicende, caro Andrea? Dimmi. La follia, solo quello. Diciamo quelli che si sono uccisi perché le banche li hanno costretti a uccidersi. Vabbè, diciamo che è successo che qualche persona si sia ammazzata per i debiti e le banche, lo strozzinaggio, eccetera. No, sicuramente. Allora. No, ma fallo proseguire, magari lo individuo. Gente che magari aveva risparmi di una vita e si sono visti andare in fumo, per esempio. Vabbè, d'accordo. Qualcuno dunque si è suicidato, noi abbiamo resistito. Ah, perché tu sei del comitato Parmalat, di quelli che si sono uccisi, eccetera, eccetera. Va bene, Andrea, però ripeto ancora una volta, cosa c'entra questo con il gesto del folle, il pazzo copilota, che sembra, secondo tutte le ricostruzioni... Volevo dire che c'è un mondo di pazzi, qua bisogna stare attenti, bisogna prima valutare bene, certo, mettergli in mano un aereo... Vabbè, questo d'accordo. Vota la Lega? Ma che c'entra che vota la Lega? No, ormai non votiamo più nessuno, sono tutti uguali. Ho capito. Ma cosa c'entra che vota la Lega? Pure tu, Parenzo, sei impazzito. Dei ragionamenti, sei un elettore leghista. Ma perché? Ma tu identifichi l'elettore leghista come un elettore, come dire, completamente fuori di testa? Non completamente. Ma fuori di testa? Cioè l'elettore... Totalmente. Totalmente, no, chi vota la Lega è fuori di testa. Non parzialmente, sì, proprio. Dunque, anch'io che ho votato qualche volta la Lega sono fuori di testa. Beh, ma no, non per quello tu. No, ma per te c'è un elenco lunghissimo. No, siamo alla follia lunghissimo, pura. Siamo alla follia elenco pura. Lunghissimo. Va bene, Andrea, vuole aggiungere qualcos'altro al suo meraviglioso intervento? Sì, lucido. No, speriamo nel futuro ormai, speriamo. Questa è una bella speriamo cosa, nel futuro. Isoliamo la frase, speriamo, così isoliamola. Speriamo nel futuro, amico mio. Voglio fare un applauso a Renato Zero, che nel 2004, sempre se la cosa viene confermata e non ci piglia per il culo, Renato Zero che rifiutò di cantare per la campagna elettorale di Vito Bonsignore. Pensate, Vito Bonsignore dell'UDC, per la campagna elettorale per l'Europea, aveva invitato, sai, come gli venne in mente? Tanto mica sono soldi nostri, che cazzo gliene frega questi qua? Cioè, prendono i soldi della campagna elettorale e li spendono. Ma Vito Bonsignore non è dell'UDC, scusa. Sì, aveva invitato Renato Zero ad un concerto per la sua campagna elettorale. No, in realtà Bonsignore i soldi ce l'ha da spendere per Renato Zero suoi. Il suo agente rispose che non cantava per i politici. E allora io direi un applauso per Renato Zero. Ernesto. Pronto, Cruciani, eccomi. Sì, Ernesto, sempre il solito. Vai, Ernesto, vai. Senti, niente, io telefonavo per dire che non credo alla teoria che si sia trattato di un gesto folle di un copilota. Ah, non ci credi. Ecco, è arrivato il tecnico. È arrivato il tecnico, fermi tutti. Ma non è una questione, è arrivato lo specialista, fermi, è arrivata una questione psicologica. Cioè, quale sarebbe? Io penso che sia, purtroppo, ho paura, temo, che si tratti di un atto di terrorismo che arriverà a breve la rivendicazione di qualche... Benissimo. Allora, caro signor Ernesto da Roma, lei evidentemente ha notizie che noi non abbiamo, che grandi esperti internazionali, stati e capi... Ah, dunque, tu credi, non credi al... Ma il fatto che la scatola nera fa registri un respiro normale, eccetera, potrebbe essere benissimo un terzo elemento che con destrezza e abilità si è inserito in quella maledetta cabina e abbia causato questo disastro. Guarda, tutto è possibile. Scusi, anche Enrico, Enrico Mentana, nel telegiornale della 7, mi riferiscono, stasera ha detto: uno è libero di suicidarsi, ma deve coinvolgere 150 persone. È questo che non quadra, dice Mentana. Adesso va bene, se ha detto così, anche lui è un po' malato di ideologia, però. Perché il suicidio è evidente: è evidente che il suicidio è non solo è un suicidio personale, ma è chiaramente con l'intento di portare con sé nel suicidio, a schiantarsi contro una montagna, anche 150 persone, altrimenti sarebbe ammazzato che a casa. Effettivamente è una cosa strana quella. Ma non è una cosa strana, pare che pure... No, che gli parta il... Ma quello sì, quello d'accordo, ma che... Se uno si vuole uccidere oggettivamente ha ma lui, purtroppo non, tanti ma evidentemente non si voleva solo uccidere, ma voleva far suicidare, voleva ammazzare pure 150 persone, ma non mi pare una cosa... Siamo nel campo della follia. Ma appunto, quello non c'è dubbio, ma non è una cosa così strana, ci sono altri episodi c'è un conto della depressione, un conto della follia. Va bene, Giuseppe da Piacenza, vai Giuseppe, vai. Sì, ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi. Ciao. Allora, volevo dire due cose. Allora, prima volevo dire a Parenzo che ha detto una stronzata clamorosa alle 19:45 quando ha detto ma se uno non è, il figlio non c'ha niente del padre e della madre non è una cosa buona. Scusa, allora no, se uno adotta un figlio... No, un momento, 1:44 ecco, secondi. Ecco, poi dopo ne ho una anche su Capanna. Ecco, no, 1:44 secondi. Ho detto ecco, che bravo, nella mia logic, come penso io, poi sbaglierò, è un po' mostruoso il fatto di pensare che una coppia va... prende un seme da uno, lo mette nell'utero di un'altra ancora estranea alla coppia, e da questa roba qui si fabbrica un figlio. Ma si fanno i figli così? I figli si fanno anche così, non certo. Non si fabbrica i figli, si fanno mettendo il seme dentro. Grazie. Comunque questo è il punto che volevo però dire, si tratta di una coppia. Vabbè. Non è proprio normale. Secondo me questa roba qui andrebbe regolamentata o proibita. Vabbè, comunque, no, io volevo dire di Capanna che ieri è riuscito a fare una cosa che un'impresa epica. Cioè? Perché è riuscito a far fare bella figura alla Meloni. Cioè, sembrava la Meloni in confronto dei gol. Una cosa incredibile. Perché? Perché dici? Come perché? Perché la Meloni giustamente l'ha messo davanti all'evidenza che lui ha preso 380.000 euro di vitalizio, ha versato 38.000 euro di contributi. Bravo, bravo, bravo. E poi, oltretutto, gli hanno detto di rinunciare a un decimo, non a tutto, a un decimo, e lui fa pure le pulci. E poi dopo dice, ah, i giovani gli sta bene che non prendono la pensione, che non lottano. Scusate, io mi sento privilegiato perché prendo quanto il figlio di Lupi, mi sento privilegiato per questo, ma io se devo lottare vuol dire che non devo andare a lavorare, devo andare a Roma e pagare, cioè a questo punto Giuseppe, hai perfettamente ragione. No, ma aspetta, ho lavoro e tengo il tetto sopra la casa e mi sto zitto e tiro avanti, oppure vado a Roma, va bene, non c'ho più un tetto sopra la casa, però voglio lottare che pezzi al culo, cioè stiamo a capire un attimo, no? Giuseppe, sei un grande, ciao. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. Iscriviti all'ICE Export Lab, il corso gratuito per le imprese che vogliono esportare. L'ICE Agenzia avvierà a breve in Campania, a Napoli, i corsi gratuiti ICE Export Lab, dove puoi perfezionare le tecniche di commercio internazionale, definire il tuo personale piano export, trovare potenziali clienti all'estero. Esportare è più facile con ICE Export Lab. Tutte le info su ice.gov.it. 2,6 metri cubi di volume e 600 kg di portata in poco più di 4 metri di lunghezza. Ford Transit Courier, piccolo per dimensioni, robusto come ogni Transit. Turbo diesel con clima e radio Bluetooth a 9.500 euro. Scopri di più su Ford.it. Per tutti gli imprenditori eroici e coraggiosi che continuano a fare impresa in Italia e a credere nel Made in Italy, Centro Software ha realizzato una soluzione ERP unica per gestire con la massima efficienza tutta l'impresa. CRM, produzione, magazzini, acquisti, qualità, amministrazione, controllo di gestione, portali. Una soluzione multilingua che dialoga con i software di clienti, agenti, tecnici e fornitori. Centrosoftware.com. I migliori ERP per valorizzare la tua impresa. Centro Software. Orgogliosi dell'ingegno italiano. Chi ti offre il tuo divano preferito a metà prezzo? A te ci pensa! Questa settimana in poltrone e sofà tutti i modelli della collezione primavera. Li paghi la metà, a partire da soli 299 euro. Scopri in negozio tutti i divani a metà prezzo, interamente realizzati in Italia. In più, sul resto della collezione paghi in 4 anni a interessi zero. Poltrone e sofà, gli artigiani della qualità. Tanfisso 0% e TAEG 6,65% su 549 euro. Costo totale del credito 78,53 euro. Moduli informativi presso i negozi, salvo approvazione della finanziaria. Dietro a gesti semplici come accendere la luce o avviare un impianto produttivo c'è un'innovazione tecnologica continua. ABB, protagonista nelle tecnologie per l'energia e l'automazione, sviluppa soluzioni e servizi per potenziare efficienza energetica, produttività e affidabilità delle reti elettriche, con elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale. ABB, una leadership innovativa al servizio della competitività. Sponsor ufficiale per l'automazione e la robotica di Expo Milano 2015. www.abb.it. Se in testa non hai il posto fisso, ma un'idea fissa, realizzarti col tuo lavoro, conta su CNA. Se ogni giorno devi combattere con banche e burocrazia e ti senti in trincea, conta su CNA. Se devi affrontare i mercati esteri, ma ti sono estranei, conta su CNA. Se vuoi svilupparti per meglio competere, conta su CNA. CNA, oltre 9.000 esperti per difendere i tuoi interessi e dare valore alla tua impresa. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese. CNA.it. Scopri le nuove versioni di Sprinter, sono così... Da oggi tu a 220 euro con 5.550 euro di anticipo e... Sprinter con 130 cavalli e 35 quintali... Tan 39 TAEG 488... Con tetto alto e clima di... Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial... Financial... Già! Ci vorrebbero due offerte per farne una come quella di Sprinter. Tuo a 220 euro al mese fino al 30 aprile. Fogli informativi nelle concessionarie aderenti. Da oggi Radio 24 diventa extra large con il nuovo sito che moltiplica la tua esperienza d'ascolto. Dal PC, dal tablet o dal tuo telefonino, entra in contatto diretto con noi. Dialoga con i conduttori, scopri immagini e volti delle trasmissioni, vivi il dietro le quinte della tua radio e scopri nuovi contenuti inaspettati. Radio24.it. Let's go! La passione si sente anche online. In collaborazione con Che Banca e Che Futuro. La Zanzara. E comportatevi bene. E Capanna continua, attacca la Meloni dicendo è oclocratica, la stessa cosa che ha detto noi, cioè stuzzica il popolo, sobilla la gente, come noi, E mi spiace che una giovane politica come la Meloni abbia fatto presto a diventare così oclocratica. Così? Oclocratica. Oclocratica. Studiare, oclocratica, ragazzi, studiare. Non lo so neanch'io. I soldi dei vitalizi sono bruscolini. Un momento. Questa economia uccide, l'unico che lo dice. E noi stiamo parlando di bruscolini pari allo 0,1% del bilancio. E poi la cosa, il vero scandalo sono i pensionati con 400 euro al mese. Ma li hai fatti diventare tu i pensionati? No, sì. No, ha contribuito anche lui. No, come no? Classe lui, dirigente di questo paese. Io ho lottato per i diritti di queste persone. Ma che lottava per i diritti? Ma gli ultimi un cazzo. E quando incontravo persone come te alla statale di Milano, che faceva? Prima ti menavo come un pazzo e buttavo le cattedre fuori dall'università. Ma non è bello, non è una cosa e bella. E urlavamo entrando immediatamente di dare l'otto a tutti immediatamente. No, il 6 era veramente, comunque. Era, e gente come te scappava come un coniglio inseguito dai Katanga. Vai, Capanna. Il scandalo dei vitalizi, eccetera, eccetera. Lo scandalo è che metà dei pensionati italiani sono costretti a vivere con un 1000 euro al mese, per non parlare di quelli che sono costretti a vivere con 450-500 euro al mese. Capanna contro Giordano, si scatena poi contro l'autore, direttore TG4, l'autore del libro Pescecani. A un certo punto dice: io con te non parlo, non voglio parlare con te. Comunque sentiamo. Io so bene che dire, bastardi questi politici che hanno il vitalizio, eccetera, mentre la povera gente è molto popolare. Non ce la faccio, io non le sopporto, è un programma brutto, è brutto. Questo non credo. Allora ragazzi, l'altro giorno Parenzo ha incontrato in aeroporto il professore avvocato Carlo Taormina, come sapete, vero, no? Professore Aminate. Avvocato Carlo Taormina. Al Club Sea, che beveva una cioccolata calda, per l'esattezza, una cioccolata. E con chi calda. Era l'avvocato professore Carlo Taormina, David? Era un personaggio simpaticissimo che è il presidente del Varese Calcio, che ho scoperto essere anche lui avvocato, sì. E che, non so se lo posso svelare, oh, ma con Taormina c'avevano una causa in corso. Una causa in corso, credo. L'uomo si chiama Pierpaolo Cassarà, eccoci qui, buonasera. Ah, c'è. Buonasera a voi, buonasera. Come sta presidente, come sta? Bene, grazie. Ho ricostruito giusto? Ma ho ricostruito giusto? Perché stanco? Perché stanco? È proprio la fisiologia dell'uomo stanco, no? Lei ha la fisiologia dell'uomo stanco, diciamo. Certo. È sempre stanco. Sì. Sempre nato stanco, non c'ho mai voglia di far nulla, poi invece devo fare sempre tutto io. Ma come non c'ha voglia di far nulla, scusa? Ma non ha voglia anche come me, non c'ha voglia. Cioè, la mattina quando si alza, a che ora si alza la mattina lei? Ma dipende. dipende di solito ma non c'è una cadenza quanto solita. Dorme ogni notte, quanto dorme? Poco, pochissimo. un paio d'ore a notte non è possibile, 3, 4 ore. È bionico, sì, ma alle 6 fondamentalmente io sono già alzato, insomma, e quindi giro già per casa con le cose che devo fare, insomma. Con quelle cose che gira per casa? Ma niente, con le mie letture, applicazioni, cose, pensieri, certo. Devo fare qualcosa. No, per penso. Carità. No, ma lei poi è single, tra l'altro, no? Assolutamente sì, single. Beh, così, nel senso, ha fatto dell'essere single quasi una sua filosofia. No, per carità di Dio, sto aspettando ancora laurea donna che... Laurea no. Donna, beh, poi, voglio dire, però single non è male, single non è male perché è la massima espressione di libertà in tutti i sensi. La massima espressione di libertà, certo. Certo, le tue regole non sono sostanzialmente, non devono sostanzialmente confrontarsi con l'eventuale compagna. Capito, Parenzo? Quindi, cioè, non c'è nessuna rinuncia, ecco, in questo senso. No, io l'ho visto sereno in quella mezz'ora che siamo stati. Beh, certo, come dovevi averlo visto, scusa, che era? No, non mi sembrava malvissuto, tormentato. No, mi ma sicuramente single, presidente del Varese, persona che ha anche una certa disponibilità economica, le donne fioccheranno, presidente, no? Immagino, Ma no, devo dire che sono molto moligerato in questo senso. Ah, no. Il sesso non mi piace. La grande quantità non mi piace, no. Possiamo dire come ha definito brillantemente l'avvocato Taormina, come è ribattezzato, diciamolo, dai, nelle aule di tribunale, com'è che è ribattezzato l'avvocato Taormina, presidente? Ma, allora, l'avvocato Taormina è per me, ma non perché è l'avvocato Taormina, il professor Taormina. Me lo dica subito, come ve l'ha detto a me, come viene chiamato? Lucerna Iuris. Lucerna Iuris? Che vuol dire Lucerna Iuris? Scusi, non mi faccia l'otito. Ma Lucerna, allora, così venne chiamato un certo che voi ignoranti non conoscete. No, noi siamo delle bestie, siamo delle bestie. Siete proprio la plebe dell'ignoranza massima. Crassa, direi anche crassa. Ma no, il grasso è ancora più in alto, voi siete proprio allo stadio del nulla. Del nulla, dello zero. Ma avete però la scusatio in iuris, come si diceva una volta, sì. O in iuris, ancora più antico. Perché questo è un personaggio antichissimo che risale intorno al 1400. Venne chiamato così un certo Arcussio, che è uno dei glossatori che glossò, quindi tradusse, vuol dire in parole brevi, no? In parole semplici, tradusse per la prima volta un libro importante che anche voi questo, non so se ve lo conoscete. No, sicuramente non lo conosciamo. Il Corpus, certo. Sentite che nome, è Corpus Iuris Giustiniani. Vabbè, comunque, perché lei chiama, certo, perché sì. viene soprannominato così l'avvocato Taormina? Lucerna Iuris, perché la luce del diritto, in questo senso. Perché la luce del diritto, perché adesso non esageriamo. Che per la prima volta cercò di conglomerare tutte queste norme antiche di diritto romano e quant'altro. Però abbiamo capito una cosa, che prima, parlando di altri argomenti, dell'argomento diciamo della sua vita sentimentale, che è importante quando uno diventa presidente di calcio, ne abbiamo conosciuti tanti, per carità, che a lei non piace, a lei la figa non piace, diciamo la verità, non piace tantissimo. No, che non piace. Non le piace, presidente, su, non è particolarmente, cioè non sarà mica homosex. No, nel senso che no, ma per carità, io sono stato... Voglio dire, un donnaiolo, sono ancora, solo che voglio la qualità, non mi piace la quantità. Per il momento di single, però voglio dire, ho anche le mie frequentazioni, per carità, non è che faccio francescano. Se uno mi dice se sei single o se sei fidanzato o se sei sposato, cioè le qualificazioni sono diverse, no? C'è un'evoluzione di stadio, no? Beh, quello non c'è dubbio, quello dobbiamo capire anche noi. No, volevamo capire se lei... Non mi piacciono le donne, ma assolutamente... No, magari è frocio, che ne so, è gay, è omosessuale, come si dice? No, anzi, voglio dire, non... Non le piacciono proprio gli omosessuali, no? No, quello assolutamente non c'entra assolutamente niente, anzi io condivido apertamente rispetto a queste persone, perché secondo me devono avere tutti i diritti, matrimonio, tutti. Ma certo, cioè, è chiaro che questa questione viene sempre interpretata male. Voglio sapere, lei è il presidente di una squadra di calcio, no? Ma secondo lei... È malamente posizionata. Malamente posizionata. Assolutamente, malamente posizionata, non c'è dubbio, posizionata. Però voglio chiedere al presidente del Varese Cassarà, che è entrato da poco in questo mondo, ma ci saranno pure degli omosessuali nelle squadre di calcio? Possibile non vengono mai fuori? Per esempio nel Varese ci sarà pure un giocatore gay, o no? Ma guardi, io questo non lo so. Ma è meglio che non ci siano, vero? In una squadra può destabilizzare un gay in una squadra di calcio, o no? Ma secondo me questo non ha nulla a che vedere con come si dice, con col fatto di essere omosessuali o meno. L'importante è che un giocatore che sia omosessuale o eterosessuale faccia il suo lavoro di giocatore. Che giochi a pallone bene, certo. Ma che giochi a pallone bene rispettando le regole. Però si dice, però si dice, no, certo, non c'è dubbio, però Casarà, si dice che quando uno è in una squadra di calcio, nello spogliatoio, si è sempre detto magari può, il fatto di essere omosessuale può destabilizzare un po' l'ambiente, no? Può un po' creare dei problemi. Guardi, su questo ma non perché io ho sempre avuto in via generale, ma già da età giovanile, una concezione assolutamente di espressione massima di libertà. Di espressione massima, cioè. Per me l'omosessualità non è niente di, guardi, insomma, dall'epoca proprio, e qui ricorre la storia, no? Sì, provo. Insomma, dall'epoca, cioè, dei greci, i romani, dei greci, figuriamoci, facevano qualsiasi cosa. Michelangelo, Caravaggio, cioè, il problema è solo di costume sociale. Certo. Presidente, le voglio chiedere, certo, voglio chiedere una cosa. Lei, che mi sembra che sia un grande appassionato anche di musica, rock and roll, no? Certo, io avevo una band garage e uno stuolo di fidanzate, di cose che era... Ma sa cantare bene? Mick Jagger della situazione. Ma come Mick Jagger? Ma suonava con Maroni magari anche Ma sa cantare, presidente? Sa cantare o no? Ma io nel quando avevo questa band garage che si chiamava Tripper. Sì. La band si chiamava Tripper, poi siamo diventati pure Tripponi. Sì, quello sì. All'epoca abbiamo suonato al vecchio, non so se esiste ancora, Milano, alle Scimmie. Ma lei sa cantare, presidente? Io cantavo e suonavo chitarra solista, sì. Cintoni un po' la sua canzone preferita, com'è? Qual è la sua canzone preferita? La mia canzone preferita dei Rolling Stones, che posso cantare così, che sia un po'... Vai, tranquillo, anche se poi... Potrebbe essere questa qua. Vai. Questa qui era... You can always get what you want. You can always get what you want. I cannot stand and try, I tell you can, I'm what you want. E poi faceva, oppure un'altra, vai con un'altra, ottimo. Un'altra era questa, quella bellissima, You Got to Move. Vai. Quella che è un blues bellissimo, stupendo. Non era dei Rolling Stones, e questo si trovava nel famoso disco di Stick Finger, quello con la cerniera, sì, disegnato, sì, da Andy Warhol, che voi ricordate tutti, no? Vecchio, io ricordo benissimo. Ignoranti, no? Ignoranti come bestie totali. Certo, però ecco, lì siamo a metà, ecco, qui siamo al grasso vostro. Vai. La come canzone fa? Era You Got to Move, You Got to Move, You Got to Move Time, You Got to Move, oh, when the Lord get rid of You Got to Move, bam bam bam bam. Basta. Ormai è tutto degradato. Beh, siamo qui con un personaggio straordinario, altro che Ferrero, altro che Zapparini, altro che presidenti vari, con Pierpaolo Cassarà, presidente del Varese Calcio, di professione... Che fa lei di professione, Cassarà? Ancora non ho capito bene. Professore universitario. Ma dove? All'Università in Subria, Facoltà di Scienze e Comunicazione, Etica del Diritto. Etica del diritto, ma che poi, ma i professori c'hanno una lira, Cassarà, come fa lei a aver comprato una squadra di calcio? Fa l'avvocato anche. No, faceva. Facevo. L'hanno radiato dall'albo, o sbaglio? Mi hanno radiato dall'albo, i 5 anni sono finiti, adesso devo decidere se riescrivermi e tutto qua, basta. Beh, diciamo che il mondo del calcio poteva aspettarsi magari un premio, ma lei, scusi, i soldi, il denaro, ce l'ha per i Baresi o no? Oppure è un gioco? Perché sa, c'è stato il caso Parma, di quello che si è comprato a squadra a un euro. Non vorrei, lo so che lei ci ha messo, credo, quanto subito? 200.000, quanto ci ha messo? 170.000 euro. 170.000, però secchi. 170.000 sa, per secchi. Mandar- non è tanto. Secchi, però per una squadra di calcio, per mandarla avanti, non è granché, Presidente. Ma io ho detto sempre, le grandi quantità delle cose sono come le caramelle, fanno male, fanno male. Ah, ho capito, aspetta. Adesso questo era un punto di partenza? Di intervento, la staffetta, che serviva immediatamente. E quindi adesso tutta una serie di sinergie che si sta sviluppando, sì. Stiamo raccogliendo importanti altri fondi, e quindi questo è, non c'è nessuna distorsione. Non c'è circolazione di distorsione, sì, non ho capito bene l'espressione circolazione di distorsione, però... Di distorsione o di cose fameliche, chissà cosa, no. No, c'è solo l'umiltà di una persona, cioè io, lei, che, ha intervenuto a un grido di aiuto. Sì. No? Ce l'hai gridato, come si fa a gridare l'aiuto? Aiuto! Dolore della città. Ma mi hanno chiamato, io conoscevo. Chi ha gridato? Chi ha urlato? Chi ha urlato? Tutta Varese, tutta Varese. Ha urlato, insomma, non è che ha urlato, si dice una metafora, certo, non c'è dubbio. Come metaforica. Sì. Il DG, il caro Giuseppe Daniello, al Papini. Sì, Papini, tra l'altro, lo conoscevo da attuale vicepresidente. Vabbè, sì. Lo conosco, anzi. Vabbè, c'è stato un grido di dolore della cittadinanza. La cittadinanza è sempre adesso si è svegliata, perché era silente, no? Silente. Ma i soldi lei ce l'ha o no? No. Allora, i soldi io ce li ho. Io adesso quanti soldi in banca c'ha lei, Cassarà? Diciamo la verità. Ma secondo lei glielo venga a dire lei quanti soldi ho in banca? Scusi. No, ma quanti soldi in banca, senso non ho capito. Il Varese è una squadra di pallone che potrebbe andare anche, potrebbe retrocedere, però intanto guardi, la mia espressione felice è sempre questa, che io sono il più ricco dei poveri. Il mio aiuto, la mia quantità di denaro non è importante. Che ho sborsato, praticamente, se l'ho fatto, voglio dire, non l'ho fatto mettendomi in pericolo. Chissà, ma il tifoso interessa sapere, no. Però, se lei ha i soldi oppure no. Ai tifosi interesserà sapere se lei ha il danè oppure no, Presidente. Vabbè, ma è sicuro che, voglio dire, non sono una persona che non è morto di fame, come campare, come la maggior parte della gente oggi che non basta, cioè, non è morto di fame, questo sta dicendo, no? No, non voglio usare questa espressione, non sono un morto di mente, ecco questo, perché morto di fame a me non piace. Non è un morto di mente, però non basta fare i presidenti essere, diciamo, come dire, non essere un morto di mente. Comunque, vabbè, ma chi se ne frega, poi vedremo se lei ha i soldi o no, Ma mi scusi un attimo, a me piacciono i contrasti, no? Benissimo. Guardi quello che c'è da prima di me, no? Quanti milioni ha buttato dentro? Ma non lo so, ma adesso siamo in un'altra epoca, cioè ci vuole gente che abbia solida. No, è sbagliato. Qua. No, invece... Solida, in che cosa solida, mi scusi? Beh, certo, non nella filosofia, che c'ha i soldi, Presidente. Ma guardi, mi scusi. Non conta. Non è la quantità dei soldi, è la qualità e la coscienza di come questi vengono usati. Beh, quello anche, però. Capito, insomma. Ma i calciatori vanno pagati. Ma lei di calcio, sa qualcosa, Presidente? Ma guardi, di calcio, io l'ho detto in avanscoperta, ragazzi. Io di calcio non capisco una mazza. Beh. Ho solo un ricordo, no? I miei ricordi sono quelli storicistici del calcio. Cioè. Punto, i vecchi campioni. Cioè, lei non sa, per esempio, le faccio un piccolo test, così mi è venuto in mente adesso, no? Cioè, lei, Platini. Tanto io mi scusi, la pregiustificazione l'ho detto, quindi anche se faccio la figura da idiota non c'è problema. Ma Platini, che cos'è adesso? Che fa? Ma Platini adesso mi pare ha una carica importante. È molto importante, capo della. Aspetta, io dico quello dei mondiali, della federazione mondiale, qualcosa. Sì, della FIFA, no? È dell'UEFA. Cioè. Della FIFA, UEFA, ecco. E invece il capo del calcio mondiale chi è? Come si chiama? Il capo del calcio mondiale, come si chiama? Chiama? È un altro personaggio. Platini, lei ha un'ammirazione pazzesca, il Platini. Più di Berlusconi, Platini. Forse lei ha un'ammirazione. Che cos'è la Champions? Sono due ammirazioni diverse. Cioè, Berlusconi lo adora, Berlusconi, in realtà. No, io non è che adoro Berlusconi. Sono praticamente un suo, fra virgolette, diciamo così, estimatore per la grande forza che ha trasmesso in Italia, per la nuova riforma, il nuovo modo, anche nel calcio, guardate Berlusconi. C'è un perseguitato, è un perseguitato secondo lei dalla giustizia. Ma allora, diciamo che secondo me certe cose se le è un po' cercate, poi lui deve capire una cosa, secondo me, caro Silvio Berlusconi. Che deve capire? Ma come tutti i grandi uomini, perché Berlusconi è stato un grande uomo, è quello che ha inventato la TV commerciale, deve capire che fisiologicamente è finito, fisiologicamente, certo punto, anche i grandi uomini Finiscono. Ma non finiscono perché sono incapaci. Perché la vita è composta da un periodo di vita e un periodo di morte. E quindi tra uno e l'altro c'è un invecchiamento. Questo è, non c'è dubbio. Senta, qual è l'ultima squadra che ha vinto i mondiali di calcio? Questo lo sa, sì, almeno questo. No, cazzo, questo non lo so. Cioè, non sa chi ha vinto tutti i mondiali in Brasile? E la Champions? Brasile, la Champions, no, io questa cosa non... No, ma la Champions, chi l'ha vinta l'ultima Champions League? E cos'è soprattutto la Champions League? No, ma cos'è la Champions League? Ma non lo so io. Ma dai, Presidente, non è possibile, dai, ci sta prendendo in giro. Sono gare importanti. Che cioè, lei non sa cos'è la Champions League? A grosso modo, la Champions, dai, a grosso modo, lo so anch'io quello che non... Cioè, quante squadre retrocedono da A alla B, per esempio, nel campionato di calcio? 3, 4, 5, quante? Ma guardi, 4, 5, una vale l'altra. Non è tanto quello il problema. Quando poi ci arriviamo, poi glielo Messi, dove gioca? Messi, dove gioca? Messi? E chi è Messi? So che è un giocatore, ma che ne so dove gioca. No, dove gioca? In quale squadra gioca? Leo Messi? Leonardo Messi? Leonardo Messi, ma guardi, se doveva avere qua il suggeritore, che ne so io dove gioca. Non ce l'ha stavolta il suggeritore, Presidente. Cioè, ma che me ne frega me dove gioca Messi? Perché qual è l'importanza? Mourinho, che squadra allena? Io guardo la squadra dove sono presidente. Mourinho, che squadra allena Mourinho? Signor Mourinho. Mourinho ha allenato una squadra, aspetti, importantissima. In Italia chi ha allenato Mourinho? Mourinho mi pare che ha allenato l'Inter. L'Inter. Beh, sì, questo va bene, d'accordo. Bravo, quello è stato questo... fantastico. Era lo spagnolo, giusto? No, veramente è portoghese, dopo... è portoghese. Portoghese, insomma, vabbè, è sempre più o meno nell'area. Ma non è uguale, parlo una lingua diversa. L'Italia, adesso chi allena? Non lo sa ovviamente chi allena adesso Mourinho. No, ne so che poi dopo ha lasciato l'Inter per tutta una serie di vicissitudini con... Beh, no, sarà nato, è andato a Real Madrid. Sì, se dato, perché, insomma, ma l'Italia... Mi pare che lui abbia raggiunto il top di tutti i campionati, perché è quello che ha vinto più di tutti delle cose, mondiali, cose. Ma no, non è vero. Ma l'Italia quanti titoli mondiali ha vinto? L'Italia? Ma che ne so, io mi ricordo... Il numero di titoli mondiali dell'Italia, numero. Ma che se ne... Ma lei è il presidente del Varese, è entrato nel mondo del calcio adesso, presidente. Ho detto ai miei super esperti, no, dell'ufficio, preparatemi questo. Io un dossier, preparatemi un dossier. Un dossier, no, cosa che ci vuole? Insomma, studio latino, filosofia, che ci vuole? Imparare quattro giocatori, tre squadre, che me ne frega. Gli schemi di gioco, mi dica uno schema di gioco. Ma guardi, gli schemi di gioco, io 5, quando 5, abbiamo... Che ne so, questa partita? Sì. Quale partita? Sì, quella so di che ci sono questi numeri 4 4 2 1, non è il mio compito. Che vuol dire? Cosa vuol dire? Vabbè, un'altra i Red Devils, chi sono i Red Devils? I diavoli rossi nel calcio. I diavoli rossi, che io quelli che mi vengono in mente sono quelli delle frecce tricolori in pare francesi, i Red Devils. Ma no, i Red Devils è il Manchester United. Ma presidente, ma lei è un disastro, deve fare veramente un corso accelerato. Cioè, ma che se ne frega? Ma il suo idolo Platini, almeno lo sa dove ha giocato o no, il suo idolo Platini. Dove ha giocato? No, io lo conosco. In Italia, dove ha giocato Platini? In quale squadra? E dove ha giocato? Me lo dica lei. Ma no, ma presidente, nella Juventus, su. Nella Juventus. Non è possibile, dai, non è possibile. Ma lei come? Lei vuole fare il Maggi me lo ricordo perché ha fatto anche di quei casini, quindi. Ma oggi ha detto anche che è super dotato, Ha letto da qualche parte. Ma oggi dice che è super dotato. Sì, lui? Sì, più di 20 centimetri. Lei come sta messo? Ah, beh. Oh, questi sono dati riservati del presidente, io non faccio come Moggi, dai. Ho una decenza, dai, su. Non fa coming out, non vuole fare coming out, insomma. No, io guardi, sono un classico, quindi questa cosa l'allenatore della sua squadra del Varese la conosce, chi è? Come si chiama? Abbiamo questo bravo Bettinelli, sì. È il nostro grande direttore. Sì, Bettinelli, almeno quello ci siamo. Ma mangia mentre è intervistato, sì, da noi. Sta mangiando una selfie perché sto parlando troppo a quest'ora, sennò poi mi addormento. È una cosa incredibile. Mamma mia, che delirio, eh? Che delirio, lei è presidente numero uno. Però, voi vedrete il Varese dove lo portiamo. Dove lo portiamo sto Varese? In Serie B, in Serie C sicuro quasi, o no? In Serie... No, guardi, adesso abbiamo tutta una serie di partite. Domenica siamo a Modena. Sì, domenica siamo a Modena. Di brutto. Mi state caricando. Come carica lei i giocatori, presidente? Come li carica? Ma guardi, come li carica? Con la prima carica che ho dato, il primo segnale che ho dato di soprattutto di rispondenza alla partita, ho detto: caro signor Corti, secondo lei ha fatto il bene ormai la squadra? Ma ha risposto. E voi sapete che cosa gli è stato applicato, no? Che quindi fuori dalla rosa, perché quindi Il coordinamento ha funzionato perché ha recepito bene il... Bene, senti, ma senta Presidente, adesso dobbiamo chiudere, ma mi dicono che c'è una contessa sua amica che si è appena suicidata, che è successo? Ma, oddio, la contessa in mezzo ai ritagli del Barese, una cosa, una storia incredibile, mi dicono. Ma questo qui è una cosa che ho letto anch'io sui giornali, si è suicidata, una vecchia conoscenza di tanti tanti anni fa. Sì. Poi non so altro. Vabbè. Senta, ma lei in gioventù si è mai fatto le canne quando era rocchettaro? No, no, mai fatto una canna, Eppure strano, strano. Frequentavo drogati perché insomma suonando in giro a destra facevano tutti, no, canne, tutte. Però arti, mai, cioè. Però mai, mai. No, no, no, che, anche perché io che sono vizio una... ce l'ha, sono... ce l'ha un vizio lei? Un vizio ce l'avrà? Un vizio. Vabbè, ah, vizio nel collezionismo, questo. Sì, perché colleziona le oche, no? Delle oche, dei cose. Le oche. Sì, colleziona delle oche e i pinocchi, i pinocchi. Vabbè, presidente, la devo salutare. L'abbraccio fortissimo, torni a trovarci. Arrivederci. Grazie. Giampaolo, provincia di Firenze, vai. Ha distrutto la canzone rock mondiale. Giampaolo, provincia di Firenze, vai. Giuseppe Cruciani, dimmi. Buonasera, buonasera a Parenzo. Vai, vai, vai. Ciao caro. Non dico nulla su di te perché tu sei veramente da prendere con le pinze. Vai, veloce, vai, dimmi. Bella. Allora, il buon Capanna, ma voglio dire, ma non si rende conto di come gli è riuscito a distruggere la sinistra in questo paese? Ma non si rende conto che lui, che dovrebbe essere lì a chiedere scusa per una serie di situazioni, appella a tutti quei cavilli, e quando lo fa qualcheduno di destra, io parlo da ex elettore di sinistra, sono lì e diventano, fanno gli scandalizzati, e poi fa quello che gli sposta il problema, non bravo, è lui, bravo, ma bravo. È quello, ma è quello. Vergogna, sono, si dovrebbe dire, solo vergognare. Sono i Campana, pensionati basta. Che prendono 400. Ma come basta? Fermo Giampaolo, ci dobbiamo sentire domani. Vi ricordo il numero anche della segreteria, 02 46 52 4010 02 46 52 4010, ciao. Andiamo negli spogliatoi, ci mettiamo nudi e quando lo vedo, ammazza, o a Luciano, c'ha una punta grossa, grossa, grossa. Ed è come dicevi tu, 20 centimetri. Barzotto, attenzione, Barzotto! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Mortacci ragazzi, mi impaurisco quando lo vedo. Ma veramente stai dicendo? Sì. Radio 24. La passione si sente.